Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi è tornato a trovarci il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerca Mario Negri, che saluto e ringrazio. Buongiorno professore. Grazie a voi, buongiorno. 349-238-6666, il numero per intervenire a Obiettivo Salute insieme a voi, e insieme a noi c'è in regia Peter Bescapè, che naturalmente ringrazio, e in assistenza, ma anche in redazione, Laura Vanossi. Quindi, come a dire, ci siamo tutti, possiamo iniziare, e partirei dai dati. Ogni giorno li aspettiamo, è diventato quasi un rituale, ma professor Remuzzi, sappiamo che all'appello manca un dato importante, il numero dei veri contagiati, e questo significa che non abbiamo la reale incidenza della malattia, e credo che questo sia un elemento fondamentale per capire come, dove e da chi cominciare per organizzare la ripresa, ma al tempo stesso per evitare il pericolo di una seconda ondata. Naturalmente dobbiamo farcela, non possiamo sbagliare. La situazione però è particolarmente complessa e sfidante, e allora professor Remuzzi vorrei chiedere proprio il suo punto di vista a riguardo. Che carta si giocherebbe per farci uscire da questo impasse? Guardi, il punto fondamentale che noi dobbiamo guardare è il numero delle persone decedute, purtroppo, e il numero delle persone decedute è molto stabile. Siamo sopra i 200 in Lombardia e sopra i 500 in tutta Italia, 580, 600, qualche giorno addirittura più di 600. Quindi noi possiamo pensare alla fase 2 quando il numero dei deceduti in Lombardia scende sotto i 200 e in Italia scende sotto i 500, poi pian pianino, come è successo a Hubei, scenderà progressivamente nelle settimane successive. L'idea mia è che non possiamo prolungare questa quarantena ancora per un mese, per esempio, vorrebbe dire magari sconfiggere il virus, ma poi sconfiggere l'Italia dal punto di vista della possibile ripartenza. E allora dobbiamo mettere in atto delle misure il più semplici possibili, il più grande buonsenso possibile, per consentire gradualmente di riprendere l'attività, che consentono alla popolazione di vivere. Qui non si tratta di attività economiche che consentono al paese di riprendere, questo non succederà per molti anni, ma si tratta di riprendere quel minimo di attività economica che garantisca la sopravvivenza dei nostri cittadini. Allora, io quello che farei sarebbe, per la prima cosa, convocare i dirigenti medici delle grandi aziende che sono rimaste in tutto questo periodo in attività, non tanto gli accademici, perché gli accademici hanno molte conoscenze, sono molto bravi, ma non hanno i dati. Quelli che hanno i dati sono i dirigenti delle grandi aziende, per esempio le banche, le poste, la grande distribuzione. Lì noi possiamo ottenere informazioni sul reale contagio dei lavoratori che erano o non erano a contatto col pubblico. Noi sappiamo da informazioni piuttosto confidenziali che i contagi siano stati nulli o trascurabili nel mese di aprile tra i lavoratori in attività. Questi dati sarebbe estremamente utile che fossero confermati e resi pubblici, perché vuol dire che se applichiamo delle opportune misure di distanziamento e se applichiamo con correttezza i sistemi di protezione individuale, quelli che abbiamo sentito fino alla noia, non è più così facile contagiarsi. Io penso che si possa anche aprire tutto il sistema produttivo ai lavoratori sotto i 40 anni o anche sotto i 50, che in realtà hanno dei rischi molto trascurabili. Si può dire che questi, quando sono asintomatici, per un paio di giorni prima possono comunque veicolare l'infezione. Sì. Se però noi manteniamo le distanze di sicurezza e i presidi individuali, questo è più difficile. E poi, se noi apriamo le fabbriche e i luoghi produttivi in modo intelligente, qualora si verificasse un caso che sviluppa i sintomi, possiamo intervenire tempestivamente e isolare i contatti. Allora diventa perché facile. Quello è importante. Quello è importante, Remuzzi. Però dirlo in teoria. Individuare e intervenire subito. Quindi io credo che i lavoratori sotto i 40 anni con gradualità possono ritornare, loro rischiano pochissimo. Poi dobbiamo mantenere delle strutture con la missione specifica di gestire pazienti Covid anche nella fase di discesa dell'epidemia e poi anche dopo la fine dell'epidemia. nell'ipotesi di ulteriori ondate epidemiche. Per esempio, in un'area, io posso immaginare, non so, mettiamo l'area di Bergamo, c'è un grande ospedale che adesso si deve dedicare, dico l'area di Bergamo perché è quella che è stata più colpita, certo, che adesso si deve dedicare a tutto il resto, abbiamo dei piccoli bambini neonati con malattie, malformazioni cardiache, non è che possiamo farli aspettare, perché se no non muoiono i malati di Covid, ma muoiono questi piccoli bambini, e così ce ne sono tantissimi altri, malati di tumori che devono fare i controlli, che devono essere operati, eccetera. Quindi i grandi ospedali devono ritornare rapidamente alla loro missione, e troviamo ospedali, per esempio nel caso di Bergamo c'è un grande ospedale a Seriate, questo può diventare un ospedale dove noi curiamo e specializziamo i medici nel curare, certo, i pazienti Covid. Dobbiamo mantenere le misure, prego. No, dobbiamo mantenere, venivo le anche alle misure. Di distanziamento, anche possiamo aprire anche le strutture alberghiere, i bar, i ristoranti, basta che ci siano le distanze, mentre i grandi luoghi di aggregazione, stadi, feste di vario tipo, quello bisogna farlo solo quando è finita l'epidemia. Professor Remuzzi, in queste ultime settimane la conoscenza della malattia è migliorata. Sappiamo ad esempio che il Covid non si manifesta solo a livello polmonare con la polmonite, ma interessa altri organi come ad esempio l'apparato cardiovascolare. Sono contenta di affrontare questo tema con lei, perché lei aveva già in tempi non sospetti proprio invitato a considerare questa specificità, e cioè lei, mi ricordo, proprio ci aveva detto anche qua in trasmissione che quando si sarebbe iniziato a vedere la polmonite, a considerarla non come una classica polmonite interstiziale, avreste capito molte cose, e da lì sarebbe poi arrivato un modo più opportuno, adeguato, efficiente ed efficace per curare la malattia. Mi sbaglio? No, è proprio così. La mia idea era stata... Insomma, ci aveva visto lungo, professor Remuzzi. Ma no, non so, avevo avuto, forse sono stato fortunato, ma la mia idea era... che se avessimo capito, la cosa che abbiamo capito subito era che questa non era la malattia interstiziale, la polmonite interstiziale che noi eravamo abituati a vedere in passato nei pazienti con l'AIDS, e che vediamo tuttora nei pazienti che fanno trapianti, terapie immunosoppressive e altri tipi di tecniche molto complicate che compromettono il sistema immune per guarire le malattie e soprattutto i tumori. Questi possono sviluppare polmoniti interstiziali, ma ci siamo resi conto che erano subito diverse da queste. La risposta, per esempio, all'intubazione e alla ventilazione assistita era molto diversa. E allora l'idea era: cerchiamo di capire davvero che cosa succede nel polmone di questi pazienti, perché forse la cura, se capiamo, ce l'abbiamo a disposizione. Già. E cercando di capire, ci siamo accorti che il virus non attacca soltanto gli alveoli polmonari, quelli che ci consentono di respirare, ma attacca anche l'endotelio, cioè quelle cellule che rivestono dall'interno le pareti dei vasi arteriosi e venosi. E in questo modo la malattia diventa una malattia che non coinvolge solo il polmone, ma coinvolgendo le arterie e le vene nel loro rivestimento interno, perché il virus è capace di attaccarsi anche alle cellule endoteliali, queste cellule che rivestono dall'interno i vasi sanguigni, perché ha dei recettori proprio lì, è molto facile che si comprometta la funzione di altri organi, per esempio il cuore. Il cuore può venire compromesso per la stessa ragione, perché ha molti di questi recettori a cui si lega il virus, e poi il fegato, e poi l'apparato gastrointestinale, tanti pazienti esordiscono con disturbi intestinali, e poi il rene e anche il cervello. Ultimamente ci siamo resi conto che il sistema nervoso può essere interessato in casi, per fortuna, rari da questo virus. Allora, quindi, se è così… Professore, è una malattia sistemica? È una malattia che coinvolge tanti organi, naturalmente l'organo maggiormente coinvolto è il polmone, ma dal polmone poi attraverso i vasi sanguigni si diffonde ad altri organi. E quello che succede è che ci siamo anche resi conto che questo virus attacca il rivestimento interno dei vasi arteriosi e venosi, che sono quelli che ci proteggono da un processo di coagulazione che si verifica tutte le volte che queste cellule endoteliali, che sono capaci proprio di mantenere la fluidità del sangue, si staccano, vanno in circolazione e lì rimangono delle fessure, per cui si cominciano a formare dei piccoli trombi, dei piccoli coaguli, e molti di questi pazienti di fatto non muoiono di polmonite, ma muoiono di embolia polmonare o di infarto del cuore. Avrete visto che molte persone muoiono improvvisamente, uno stava abbastanza bene, addirittura era pronto per tornare a casa e poi muore improvvisamente. Questo dipende da questi trombosi che si verificano improvvisamente nelle coronarie, sono le trombosi estese, non sono come quello che succede con l'infarto, oppure delle embolie polmonari. Allora, per prevenire quello abbiamo dei farmaci, abbiamo capacità di curare l'embolia polmonare da moltissimi anni, anche in modo efficace, abbiamo dei test che ci fanno capire quando un paziente sta per sviluppare una malattia di questo tipo. Quindi più riusciamo a capire, ed è cambiato tutto da quando ci siamo sentiti l'altra volta a oggi, più abbiamo la possibilità di curare queste malattie con farmaci che utilizziamo già per altre condizioni, appunto per l'infarto, appunto per l'embolia polmonare, appunto per certe condizioni neurologiche. E questo è interessante perché nel frattempo i nostri malati sono cambiati. I malati che abbiamo cominciato a curare con sintomatici, che non sono le cure per il virus, ma sono le cure per le conseguenze del virus, che però adesso abbiamo capito, sono malati molto meno gravi. Arrivano meno malati al pronto soccorso perché anche i medici di famiglia riescono a curarli prima con dei metodi relativamente semplici. E quelli che arrivano al pronto soccorso, molti addirittura hanno una malattia così lieve che possono tornare a casa, altri vengono ricoverati, ma non è più quella situazione drammatica di prima, e infatti vedete che ogni sera sentiamo che c'è meno bisogno di posti in terapia intensiva. Questo non è un dato assoluto perché dipende dai posti che sono stati creati nel frattempo. Se nel frattempo i posti sono aumentati è chiaro che ci saranno più posti liberi, però è un dato che ha un suo valore, soprattutto perché continua a diminuire la necessità di questi posti in terapia intensiva. Professor Remuzzi, io la ringrazio sempre per essere stato con noi, per la sua chiarezza. Ci sentiamo presto, io mi auguro la prossima settimana. Professore, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e buon lavoro, e buon lavoro di cuore. Grazie a voi. Adesso noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e poi ritorniamo subito dopo insieme, parliamo di mascherine e oggi ci focalizziamo in modo particolare sulle mascherine chirurgiche. Le indossiamo correttamente? Abbiamo delle domande? Quanto le conserviamo? Le devo disinfettare? Posso sanificarle come e perché? A tra poco con un grande esperto, se volete intervenire, 349-238-6666. Vi aspetto. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Obiettivo salute. Io resto a casa, ma quando esco metto la mascherina. Con questo hashtag voglio introdurre il prossimo ospite che è in linea con noi, il professor Valerio Rossi Albertini, fisico, chimico, primo ricercatore al Consiglio Nazionale delle Ricerche e docente di divulgazione della scienza presso l'Università Roma 2. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Professore, lei ha appena pubblicato con Longanesi Conosci il tuo nemico, cos'è, da dove viene e cosa ci insegna il coronavirus, che è una sorta di manuale di istruzioni che aiuta a fare chiarezza sul SARS-CoV-2, un nemico invisibile ma che, come lei scrive nel libro, che mi è piaciuto molto, affidandoci alla scienza abbiamo i mezzi e le capacità di smascherare, contenere e distruggere. Ognuno di noi naturalmente, professore, deve deve fare la sua parte, ad esempio restare a casa, rispettare le distanze sociali e usare i dispositivi correttamente. E oggi, come anticipato, partirei dalle mascherine e mi focalizzerei su quelle chirurgiche. Professore, è d'accordo? Sì, ci aiuta? Ci aiuta a fare una sorta di vademecum a due voci? Io le snocciolo tutti i dubbi che noi abbiamo riguardo l'utilizzo di questo dispositivo e lei ci dà spiegazioni, indicazioni e consigli. Partiamo? Volentieri, certo. Intanto andiamo a una definizione. Per dicasi mascherine chirurgiche, completi lei. È quel dispositivo sanitario che viene utilizzato in sala operatoria, perché lì nascono le mascherine chirurgiche, non si chiamano chirurgiche a caso, per preservare l'integrità del paziente che è sotto i ferri da eventuali contaminazioni dovute al respiro dei sanitari che lo circondano, primo tra tutti il chirurgo. Quindi questo è il primo concetto. A che cosa serve la mascherina? Ad evitare di diffondere quelle goccioline che inevitabilmente accompagnano la nostra respirazione, peggio ancora se tossiamo o starnutiamo, e evitare, dicevo, che passino dalla nostra bocca al nostro interlocutore o alle persone che ci circondano. Quindi questa è la prima indicazione. Attenzione, la mascherina serve soprattutto come filtro in uscita. Dopodiché, essendo comunque un filtro ed essendo abbastanza simmetrico, reversibile, ci protegge anche in entrata, ma la sua funzione soprattutto è protezione in uscita. Cioè noi, mettendo la mascherina, evitiamo, se avessimo contratto il coronavirus o altra patologia, che gli altri si ammalino. Ora, se la situazione è reciproca, che noi abbiamo la mascherina ma anche il nostro interlocutore ha la mascherina, c'è un doppio filtro molto potente in uscita dalla nostra bocca e dalla bocca del nostro interlocutore, e c'è un filtro abbastanza efficace anche in ingresso, cioè che protegge sia la nostra bocca e le vie aeree in generale, anche il naso, sia quella del nostro interlocutore. Professore, come si indossano e come posso verificare di avere eseguito l'operazione correttamente? Beh, allora, così spiegarlo a semplici parole non è semplicissimo, perché si tira praticamente dagli elastici la mascherina dopo averla messa in corrispondenza della bocca, del naso e del mento, e si agganciano gli elastici dietro le orecchie. Ci sono dei tutorial fatti proprio da medici professionisti che si trovano in rete, sollecito i nostri ascoltatori ad andare a vedere il tutorial certificati ovviamente, quelli che sono stati fatti ad esempio dalle strutture sanitarie, perché è molto più eloquente un'immagine che 100 parole. Poi come si tolgono? Ecco, quello sì, posso dirlo, si tolgono evitando assolutamente di toccare la superficie esterna che è stata eventualmente esposta alla contaminazione, perché la riflessione più importante sulle mascherine è che possono diventare un'arma a doppio taglio. Perché? Immaginiamo di essere stati accidentalmente in un ambiente contaminato e che quindi la mascherina ci abbia effettivamente protetto. Ora, se ci ha protetto, significa che quelle goccioline che veicolano il coronavirus, perché il coronavirus va, come ha presente il barone di Munchausen che se ne va, certo, a cavalcioni, sì, della palla di cannone, così il coronavirus se ne va a cavalcioni, però all'interno delle goccioline, che per il coronavirus sono immensamente grandi anche queste goccioline minuscole. Poi, se vuole, le faccio un paragone per farle capire quanto è piccolo questo virus e perché è così insidioso. Fatto sta che la gocciolina o le goccioline sono arrivate nella mascherina, sono trattenute nelle fibre e lì rimangono. E il virus è vivo, è presente. E allora significa che la mascherina diventa un ricettacolo. Ed è un ricettacolo potenzialmente pericoloso, perché non è a distanza, non è eventuale il contatto, certo, è proprio contatto stretto con le vie di ingresso del nostro organismo, la bocca, il naso e gli occhi. Quindi raccomando a tutti quanti grande cautela sia quando si toglie la mascherina che mentre si indossa. Ho visto delle pratiche veramente censurabili di persone che usano la mascherina come se fossero gli occhiali. La prendono, la tolgono, arriva la telefonata, la tirano sotto il mento e poi la ritirano su, prendendola nel pugno, quindi la mano, se per caso ci fosse il virus, si sarebbe riempita di virus. E poi ancora bevono il bicchiere d'acqua e poi la sganciano, l'appoggiano sul tavolo, l'appoggiano sul sedile della macchina. Ricordiamoci, certo, che la mascherina, nella peggiore delle ipotesi, non è molto frequente questo caso, ma se ha svolto, se ha assolto la sua funzione di protezione, l'ha fatta però a spese della sua integrità, cioè il virus non è entrato nelle nostre vie respiratorie perché è rimasto nelle fibre del filtro della mascherina e lì rimane. E lì rimane. Professore, la fermo per chiederle, rispondere a due domande che ci portano avanti in questa sorta di mascherina istruzioni per l'uso che stiamo facendo insieme a lei. La prima è come, se si può e come disinfettare la mascherina. La seconda è ogni quanto buttarla e cambiarla, in pratica quanto dura. Allora, la risposta ortodossa sarebbe: alla fine dell'uso della mascherina siamo andati in giro, bisognerebbe buttarla neanche nell'indifferenziata, andrebbe buttata nei bidoni di raccolta dei dispositivi sanitari. Disgraziatamente non è che ce ne siano molti in giro e quindi ci vorrebbe un posto dentro casa, quando rientriamo, in cui mettere la mascherina, sigillarla, un barattolo, una scatola, ci mettiamo la mascherina e la lasciamo da una parte e non lo tocchiamo più, la riapriamo con molta cautela quando la dobbiamo buttare. Dobbiamo indossarla di nuovo. Allora, quindi, premesso che la mascherina è come il fazzolettino di carta, una volta soffiati il naso, che cosa ci si fa col fazzoletto di carta? Si mette in lavatrice? No, ovviamente è fatto, è concepito per essere utilizzato una sola volta. Detto questo, siccome non sono di facile reperibilità, ci sono delle regioni in cui c'è l'obbligo di indossare la mascherina addirittura quando si circola per strada, neanche nei locali chiusi in presenza di altre persone, allora sorge la necessità di dover recuperare la mascherina. Ma se proprio dobbiamo farlo, facciamolo una volta, facciamo due volte massimo, perché la sanificazione e la disinfezione della mascherina comunque non è prevista. E quindi compromette progressivamente l'azione di filtro della mascherina. Ora, okay, se vuole, messaggio ricevuto. Come farlo nella maniera migliore? Se uno è proprio costretto a un torto collo perché non ha alternative di utilizzare, allora direi che i metodi che consigliano sono due. Il primo è il metodo dei farmacisti, cosiddetto, probabilmente per il fatto che alcuni video virali sono circolati. Si prende una scatola di plastica, si mette un po' di alcol sul fondo della scatola, non ne serve tanto, come ordine di grandezza bastano due o tre cucchiai, in una scatola di piccole dimensioni, di dimensioni confrontabili con quelle della mascherina. Si mette la mascherina rovesciata, cioè con la parte esposta all'eventuale interlocutore sotto il coperchio, si aggancia con gli elastici al coperchio e si chiude la scatola. In pratica c'è la scatola, c'è l'alcol sul fondo e c'è la mascherina aderente al coperchio sulla faccia interna del coperchio. Ora, cosa succede? Che per l'evaporazione spontanea dell'alcol, che è una sostanza, un liquido molto volatile, la scatola si riempie di vapori alcolici e in qualche ora i virus sono sterminati. Grazie professore, grazie per questa indicazione. Ricordiamo il titolo del suo libro, Conosci il tuo nemico, Longanesi editore, per tutte. Sì, dico Prof. Conosci il tuo nemico perché ci sono tante cose da capire sul virus, io sono un divulgatore. Ma noi la invitiamo nuovamente, oltre a invitare gli ascoltatori naturalmente a procurarsi il libro. Professore, la ringrazio, noi ci sentiamo domani, buona giornata.